fino all'11 aprile. Siamo aperti dal martedì al venerdì solo il pomeriggio, dalle 14 alle 19, e sarà aperta anche Casa Morandi, la casa originale dell'artista con la ricostruzione del suo studio, con tutti gli oggetti e gli arredi originali. È aperta però il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 19. Sì, dici bene, giochiamo in casa, ma abbiamo sempre lavorato anche stando chiusi, perché questa situazione drammatica però a noi operatori museali ha permesso proprio di guardare con un occhio diverso alle opere che sono conservate qui. Quindi, se da un lato il Mambo ha chiamato questa rassegna Recollecting proprio perché dà l'occasione anche di vedere delle opere meno conosciute o spesso che giacciono nei depositi, nel caso di Morandi si è trattato invece di focalizzarsi su degli aspetti in modo da consentire ai visitatori, sia quelli nuovi che magari vengono per la prima volta, ma anche a chi torna, di appunto vedere qualcosa di diverso. Morandi è un artista complesso e quindi poterlo rivedere con tempi e sfaccettature diverse è senz'altro un'occasione importante, e per questo invitiamo i bolognesi a tornare sempre in questo museo. È un artista complesso e di fama mondiale, quindi abbiamo proprio il dovere di celebrarlo. E in questo secondo focus, il primo era centrato sui suoi fiori, abbiamo scelto le nature morte degli oggetti della maturità, ovvero in quella fase molto ricca, fertile, creativamente, forse il vertice della sua arte, in cui Morandi si concentra sempre, i temi sono sempre gli stessi, certo, però è cambiato qualcosa, è cambiato l'umore, è cambiato la gamma cromatica che si fa più chiara, più sottile, la pennellata, e anche la composizione insiste su dei temi che vengono chiamati le varianti, ovvero una serie di dipinti incentrati sullo stesso motivo di composizione è studiata con minime variazioni, sia di oggetto che di colore. Anche questo è un tema caro a Morandi, ma in questo momento, cioè ovvero tra il 48 e il 64, l'anno della morte, Morandi insiste su questi temi e la sua attività si fa sempre più assidua, più metodica. Quindi uno sguardo sempre più meditato sulle cose, parte del visibile, diremmo meglio, ecco, perché comunque possiamo parlare più di visibile che di reale. L'occhio umano percepisce solo una parte del reale. Condivido l'idea che in precedenza hai palesato sul fatto che è un artista complesso, e proprio per questo avere diverse chiavi di comprensione per entrare in sintonia con la sua espressione artistica è indubbiamente un motivo importante. Sono 10 opere, se non sbaglio. Esatto, si tratta di 10 opere, sono 5 della nostra collezione e 5 invece opere di collezionisti privati che in varie fasi hanno lasciato qui incomodato temporaneo. È un gesto importantissimo per noi perché ci dà la possibilità appunto di variare, e non sono nuove nel senso che la più recente è entrata 2 anni fa, però messe insieme sono proprio di quell'arco temporaneo dal 53 al 59, dove Morandi proprio si dedica ad alcune determinate composizioni in modo iterato e insistito, sempre le stesse. Quindi sono delle variazioni con oggetti e bottiglie dello studio. La cosa molto interessante per il visitatore è che abbiamo proprio ricostruito una tela, quella della collezione Pavarotti, perché abbiamo anche la fortuna di avere un quadro che è appartenuto a Luciano Pavarotti, e l'abbiamo costruita con gli oggetti originali, quindi c'è a fianco alla tela, si vedono questi bellissimi oggetti dallo studio di Morandi ricomposti esattamente come lui li aveva disposti sul suo tavolo di lavoro. Altri oggetti che provengono dallo studio e quindi che normalmente si fa fatica a poter vedere così da vicino sono una delle sue tavolozze, la tavolozza dai colori più sgargianti, e quindi che stupisce molto, perché pensiamo sempre ai fondi di Morandi come dominati dalle tinte grigie, sfumature di bianchi e bruni, e in realtà appunto il colore è importantissimo. Un altro aspetto infatti del focus è questo, cercare di esaltare l'importanza che acquista il ruolo del colore nell'opera di Morandi, perché con il colore lui definisce le forme, ed è tutta la critica proprio degli anni 50 e unanime nel riconoscere la sua grandezza anche come colorista, e lo chiamano pittura tonale perché è proprio di una ricchezza, di una varietà che è impossibile contare quante sfumature ci siano nei suoi quadri di grigi, di bianchi, o anche quando si dedica ai paesaggi è proprio un maestro nella ricchezza dei verdi. E sappiamo che si amava prepararsi i colori da solo, e infatti c'è una testimonianza in mostra anche di questi colori in polvere che lui andava a comprare nelle mesticherie, macinava, lui prendeva le terre, poi le macinava e le diluiva, questo in tutta la prima fase della sua opera. Poi verso la guerra così passerà i colori in tubetto, e anche di questo abbiamo una testimonianza in mostra. Ci sono esempi di colore, ci sono i pennelli, tutti tagliati da lui nelle punte a seconda delle misure che gli occorrevano per il tocco che voleva, diverso, che voleva ottenere. E poi abbiamo delle testimonianze di lettere e anche un'intervista molto particolare che gli è stata fatta nel 58. Ci sono delle lettere che vanno dal 1919 al 27, al 41, quando durante la guerra appunto scarseggiano i materiali e lui ricorre a tutti gli amici, critici, collezionisti che gli possano portare il colore che gli serve. Anche bello è vedere come avesse una rete di relazioni importantissima anche da questo punto di vista, che lo supportavano e insomma su cui contare. Siamo verso la conclusione e ti chiedo, che nel percorso in mostra quindi vi è un'interazione concreta tra le opere, il figurativo e anche quello che è un percorso di costruzione e di vita, per dare un'immagine completa anche in questo aspetto. Hai parlato di tavolozzi, di altri supporti. Sì, infatti abbiamo cercato proprio di dare un quadro di come questo artista lavorasse, e completa la mostra anche un video dove ci sono sempre io all'interno dello studio originale, illustrando gli spazi dove Morandi lavorava, questo microcosmo di studio e vita, insomma, dove tutto si riassumeva. Aveva ben tre tavoli diversi appoggio e tutti gli oggetti accatastati intorno, però lui riusciva a isolare questa piccola porzione di mondo, di forme, scegliendo appunto le composizioni di volta in volta su cui lavorare, sì, con tempi molto lunghi, soprattutto nella preparazione, poi poteva anche impiegare meno nel dipingerli, ma erano... Vi era tutto un lavoro di preparazione importante, che viene raccolto in questa specificità. Io mi congedo da te con la domanda da $1,000,000: le emozioni per le chiavi di comprensione di Morandi. È una domandona, però io risponderei con le parole di Luigi Magnani, che è questo raffinato, è un gigante, c'è un'esposizione alla Magnani Rocca di una bellezza infinita. È un luogo bellissimo che non troppo lontano da noi, quindi visitabile assolutamente. E Magnani, che conosceva bene Morandi, diceva che il valore di Morandi andava al di là dell'artista, era oltre la pittura di Morandi. Diceva che era un esempio di spiritualità, uno stimolo di elevazione morale e un invito a divenire migliori. Ecco, io credo che Morandi trasmetta tutto ciò, arrivi come messaggio, ed è per questo che è universale e arriva a tutti. E io ti saluto ringraziandoti per aver citato una delle sedi che praticamente è alfiere della nostra rubrica in mostra al Breakfast Club, la Magnani Rocca, con la direzione di Stefano Roffi, sperando poi che ci sia sempre un maggior possibilità di riaperture e di circolazione. Invito a visitare, come ogni volta, quella che secondo me è una delle sedi espositive più belle in assoluto. E ha una collezione di Morandi bellissima, peraltro, Certo, quindi infatti. ringrazio anche Giusy Bacchi per l'ottimo lavoro e la disponibilità per presentare l'esposizione di cui abbiamo appena parlato, Museo Morandi, Casa Morandi, il Mambo, è fino all'11 aprile, per cui questo lo ribadiamo ed evitiamo refusi con le date a cui purtroppo cado spesso, e ti auguro una buona giornata. Altrettanto a voi, grazie.